Thank you.

Bye. entra la corte, esamina il caserio e gli domanda se si era pentito. 5 minuti m'avessero dato un altro presidente, avrei ammazzato. C'ha il manico arrotondo nel cuore di Carnot, l'ho penetrato a fondo. Io son dell'anarchia, Caserio fa il fornaio e non la spia. Thank you. Thank you.